È indiscutibile che Paolo, l'apostolo dei gentili, sia stato un uomo di Dio, e quando si dice uomo di Dio è d'obbligo pensare a qualcuno che sia prima di tutto un uomo, perché non essendo tale non può essere un uomo di Dio. Quando si parla di uomo è sempre saggio non dimenticare che per essere tale deve avere delle caratteristiche sue proprie personali, diversamente non sarebbe un uomo, ma sarebbe una persona qualsiasi senza distinguersi dagli altri uomini. Proprio per questo, ogni uomo di Dio aveva le sue particolarità che lo rendevano unico. Mosè, per esempio, è definito nella Scrittura un uomo mansueto, mentre di Davide è scritto che fosse un uomo secondo il cuore di Dio. E infine del profeta Daniele viene detto che era molto amato. Questi particolari mi hanno indotto a pensare che caratteristiche aveva Paolo. La Scrittura ce ne dà un qualche tratto particolare. Non ho trovato nulla nella Bibbia che esprima un parere sul carattere di Paolo. Però, dall'abbondante letteratura che ha lasciato l'Apostolo 13 lettere, ho trovato degli elementi che mi possono indicare il suo carattere. Infatti, di tanto in tanto, egli racconta dei particolari personali. Inoltre, anche il medico Luca, nel libro degli Atti, racconta di aver presenziato i viaggi dell'Apostolo fino a Roma. Consideriamo cosa dice la parola di Dio in merito al carattere di Paolo. 1. Paolo era uomo di Nuovo Testamento, Antico Testamento o adulto. 1 Corinzi 13.11. Quando ero bambino, parlavo come un bambino, pensavo come un bambino, ragionavo come un bambino. Quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Sembra cosa di poco conto o che faccia sorridere, ma gli uomini e le donne che diventano adulti, o che arrivano alla maturità, non sono molti. Uno psicologo ha detto che sono troppi coloro che terminano la loro esistenza senza aver raggiunto quel processo di maturità che li fa diventare adulti. Così è anche per chi pone fede in Cristo. Spesso il credente è tanto attento alle cose spirituali ed eterne da dimenticare che per ora è ancora su questa terra e, come tale, deve rapportarsi correttamente e con maturità con tutto ciò che fa parte della sua esistenza. L'Apostolo Paolo testimonia che quando era bambino parlava, ragionava e pensava come un bambino, ma quando è diventato uomo, cioè adulto fisicamente, ha smesso di comportarsi come un bambino. Da notare il verbo smettere. Paolo era diventato uomo grazie ad uno sviluppo naturale e normale, per il quale non occorre fare nulla se non nutrirsi e vivere adeguatamente, ma ha raggiunto la maturità nel momento in cui ha smesso di comportarsi da bambino. Essere maschio o femmine dipende dalla nascita. Diventare uomini o donne è una questione di scelta. Quando noi affermiamo che Tizio o Caio sia un uomo, siamo in grado di farlo perché nella nostra mente abbiamo chiara la differenza che passa tra l'uomo e il bambino. In pratica contrapponiamo l'uomo al bambino. Questa contrapposizione non si basa in relazione alla maturità sessuale o all'età. Perché noi potremmo anche affermare che Tizio e Caio si comportano da bambini benché siano adulti. Esprimendoci in questo modo, palesiamo che la differenza tra l'uomo e il bambino non è fisica, ma comportamentale. Quello che distingue allora l'uomo dal bambino è il modo di comportarsi e di ragionare. Nel campo spirituale le cose non sono molto diverse. Esistono i credenti bambini e credenti uomini. Che vi siano credenti bambini è normale, perché quando si nasce di nuovo si è bambini in Cristo. La tragedia è rimanerlo anche dopo 10, 20, 30 anni dalla conversione. È normale essere bambini alla nascita, è anormale rimanere bambini. E, Nandi capitolo, uno psicologo ha detto che, dalla nascita alla morte, l'esistenza sia una crescita incessante verso la maturità completa, e ha scritto, l'immaturità è contraddistinta dal fatto che l'uomo converge la propria attenzione su se stesso. Tutti i segni dell'immaturità hanno tale caratteristica. Questo egocentrismo si manifesta in vari modi, rancori, pregiudizi, volto perennemente imbronciato, riflessione condizionata dall'emotività, esagerato senso di inferiorità, eccessiva preoccupazione per le altrui opinioni su di noi, tormentosa inquietudine, iperdipendenza dai genitori o dalla famiglia, atteggiamenti ribelli e stizzosi, esplosioni di collera, critica puramente distruttiva, abitudine a temporeggiare, umorismo grossolano col quale si umilia il prossimo, amore. Ecco invece i contrassegni della maturità, la capacità di aprirsi agli altri, di andare d'accordo con essi, di esercitare una ragionevole autonomia, di proporsi obiettivi realistici, di agire con discernimento e prudenza, di distinguere ciò che nella vita è importante da ciò che non lo è. E ancora l'adattabilità, l'adattabilità e la stabilità emotiva. Dopo questa valutazione possiamo dire che l'Apostolo Paolo ha sempre dato segni di maturità, una caratteristica che ha segnato profondamente e in modo positivo il suo carattere. Senza questa premessa, ogni altro aspetto del suo carattere sarebbe stato seriamente danneggiato. 2. Paolo non era permaloso, Atti 27.9-26. Se vogliamo conoscere il vero carattere di un uomo, dobbiamo osservarlo nelle più disparate situazioni della vita. Un uomo può essere molto altruista con il prossimo, eppure comportarsi da vero egoista con i propri familiari. Un altro può normalmente comportarsi da umile, ma quando entra in gioco il suo onore, diventare arrogante. Così, a considerare il carattere di Paolo solo quando esercita l'autorità dell'apostolo, si potrebbe ricavarne una visione distorta. Invece scrutare l'apostolo in una situazione a lui non favorevole è interessante. Prendiamo l'episodio di quando sta navigando come prigioniero verso Roma. In quel periodo non vi erano i bollettini meteorologi e viaggiare con bel tempo era sempre una impresa. Arrivati in un porto chiamato Bei Porti, Paolo espose il suo giudizio relativo all'inopportunità di intraprendere il viaggio, ma il capitano della nave e il pilota non erano d'accordo, così decisero di affrontare la traversata, ma durante la navigazione si scatenò una furiosa tempesta rischiosa per la nave e per il carico, oltre che per le 286 persone. Il medico Luca così ci descrive l'avvenimento, e poiché erano rimasti senza cibo per molto tempo, Paolo si alzò in mezzo a loro e disse: «Uomini, se mi aveste dato ascolto e non foste partiti da Creta, avreste evitato questo pericolo e questa perdita. Ma ora vi esorto a non perdervi d'animo, perché non vi sarà perdita della vita di alcuno di voi, ma solo della nave. Poiché mi è apparso questa notte un angelo di Dio al quale appartengo e che io servo, dicendo: Paolo, non temere, tu devi comparire davanti a Cesare, ed ecco, Dio ti ha dato tutti coloro che navigano con te. Perciò, o uomini, state di buon cuore, perché io ho fede in Dio che avverrà esattamente come mi è stato detto. Ma dovremo finire incagliati su un'isola». Atti 27.21-26. Stupendo intervento. Paolo ha rivolto delle parole di conforto a tutti, nonostante non fosse stato precedentemente ascoltato. Paolo non ha detto, come avrei forse fatto io: «Aveste visto che avevo ragione, non avete voluto ascoltarmi, ed ora arrangiatevi». È vero che ha ricordato loro di non essere stato ascoltato, ma solo per far capire di sapere ciò che diceva quando apriva bocca, e, subito dopo, li ha incoraggiati a non perdersi di animo. Non aveva parlato un permaloso o un bambino in Cristo, ma un uomo credente, maturo, che non addebita il male. Uno dei più grandi ostacoli per ogni tipo di rapporto con il prossimo è la permalosità, è l'essere suscettibile, cioè quando, a causa di un gesto o una parola altrui, si cambia facilmente umore o sentimento. Chi è permaloso non permette che nessuna relazione possa essere portata avanti nella normalità o in serenità, perché costringe l'altro a doversi trovare sempre in situazioni imbarazzanti. Se Paolo se la fosse presa perché non era stato ascoltato e con la conseguente pericolosità per la propria vita, avrebbe creato un clima di tensione sulla nave, avrebbe impedito che le cose si risolvessero. Ma esercitando invece l'amore che non rende il male ricevuto, ha cercato il bene di tutti, anche del centurione che lo teneva prigioniero. È facile leggere delle parole scritte sulla carta, ma conosco persone che nutrono ancora oggi odio verso coloro che, per eseguire gli ordini ricevuti, li tenevano prigionieri o li privavano delle necessità più impellenti. È vero che l'ubbidienza non è più una virtù e ognuno sarà responsabile dei propri atti, Ma è anche vero che un uomo o una donna maturi hanno smesso di nutrire rancori o permalosità verso chi ha procurato loro del male. Più stretto è il rapporto di convivenza e più è devastante è la permalosità. Pensiamo a come si è vissuto in agonia il rapporto matrimoniale, quando uno dei coniugi è permaloso, quando si sdegna o si irrita per un non nulla. Inoltre, a come si è vissuto con sofferenza il rapporto fraterno assieme a elementi che sono ombrosi. Eppure, nonostante tutto, queste situazioni dolorose producono del benessere in chi le sopporta con maturità, perché, volenti o nolenti, portano a sviluppare virtù cristiane preziose agli occhi di Dio. Leggevo una esposizione in merito al grande Abramo Lincoln, nella quale l'autore faceva notare che molto del carattere del presidente era stato forgiato grazie al rapporto difficile con la moglie, la prima creatura femminile aggressivamente brillante, secondo una sua definizione. E, importante notare, diceva l'autore di questo saggio, che non solo il difficile rapporto matrimoniale di Lincoln non gli impedì di giungere alla grandezza, ma anzi, si può dire, che in effetti esso lo abbia preparato alla grandezza. Se Abramo Lincoln fosse stato permaloso, non avrebbe potuto essere quello che poi diventò. Alcuni storici affermano che la moglie di Lincoln sarebbe stata all'ultimo posto in assoluto nella classifica delle mogli dei presidenti, mentre il presidente di maggior successo in assoluto sarebbe stato proprio Abramo Lincoln. A cosa può arrivare chi non è permaloso? 3. Paolo era un uomo genuino, Galati 2.1.1.14. Un'altra caratteristica di un uomo che ha raggiunto la maturità è la sua schiettezza, la sua lealtà o genuinità. Essere servitori di Cristo o lavorare nel regno di Dio non garantisce le qualità morali, per cui troviamo uomini e donne che non hanno il coraggio di dire le cose come stanno, o cercano di piacere agli uomini, come lo stesso Paolo ha detto di fare lui stesso prima della sua conversione. Galati 1.10. Nella lettera inviata ai Galati, l'Apostolo racconta un episodio della sua vita, che ne delinea la caratteristica di uomo genuino e schietto in ogni circostanza. Paolo ricorda la sua chiamata da parte di Dio ad evangelizzare gli stranieri, come Pietro è stato convocato ad evangelizzare i connazionali. E, dopo aver ricordato di aver ricevuto il benestare per la sua missione, da Pietro, Giacomo e Giovanni ricorda un episodio abbastanza increscioso, con queste parole: «Ma quando Pietro venne in Antiochia, io gli resistei in faccia, perché era da riprendere. Infatti, prima che venissero alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con i gentili, ma quando giunsero quelli, egli si ritirò e si separò, temendo quelli della circoncisione». E anche gli altri giudei fingevano, assieme a lui, tanto che anche Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Ma quando io vidi che non camminavano rettamente secondo la verità della sua Evangelo, dissi a Pietro in presenza di tutti: «Se tu che sei giudeo, vivi alla gentile e non alla giudaica perché costringi i gentili a giudeizzare». Con questa testimonianza Paolo vuole dimostrare prima di tutto la propria indipendenza dagli altri apostoli, del suo Vangelo come della sua posizione. Gli apostoli Pietro e Giacomo erano ritenuti dai cristiani le colonne del cristianesimo nascente, perciò riprendere Pietro e dare una sferzata a persone istruite da Giacomo voleva dire toccare un vespaio non indifferente. Come oggi se uno riprendesse il Papa, un imam o un Dalai Lama, cosa succederebbe? L'Apostolo Paolo sapeva bene a quali pericoli andava incontro, ma con franchezza e con l'amore che lo caratterizzava ovunque preferì esporsi e riprendere pubblicamente Pietro. Forse pochi hanno compreso, ma è molto più difficile riprendere un fratello con amore per amore che lasciare che le cose sbagliate proseguano il loro corso. Paolo era genuino. Amava spassionatamente Gesù Cristo e la verità, per questo esponeva ciò che aveva in cuore. Nelle sue lettere ha sempre espresso tanto i suoi sentimenti di affetto come quelli di disapprovazione, ha testimoniato delle sue lacrime d'amore, come dei suoi momenti di gioia. Per i cristiani, se era necessario, era pronto a dare la sua vita, come era pronto a ritirarsi da chiunque avesse un comportamento peccaminoso. L'apostolo Paolo era un uomo che non si vergognava di Cristo e dei cristiani, come non si vergognava di esprimere il suo parere, e questo sempre a fin di bene. Questo atteggiamento contrasta visibilmente coloro che parlano, sì, ma con un movente non sempre teso ad aiutare. Sono d'accordo con chi ha detto: detesto gli uomini che proclamano. Io sono sincero, dico quello che penso. Se una cosa non mi va, la grido in faccia a chiunque e subito. Detesto questi uomini perché, con stupida ipocrisia, vogliono far passare per sincerità la loro maleducazione. Essere sinceri significa non mentire, ingannare, tradire, e questa è certo una virtù. Ma litigare sempre con tutti, dire cose sgradevoli, offendere, significa ritenersi giudici infallibili del prossimo e riconoscere a se stessi il diritto di umiliare. E questa non è virtù, ma stolta. Presunzione. Gli uomini hanno il dono della parola, è vero, ma sono altresì dotati del dono del silenzio, che spesso vuol dire rispetto degli altri, comprensione, umiltà, riservatezza. Chi non ha questo rispetto, questa comprensione, abbia almeno il buon gusto di non proclamarsi virtuoso. Dal momento che si ritiene sincero, ammetta sinceramente di essere un villano e di meritare l'antipatia che gli altri, in silenzio ma duramente, provano per lui. L'apostolo Paolo era un uomo maturo e, se aveva dei nemici, non era perché diceva quello che pensava, senza curarsi di ciò che avrebbero procurato le sue parole, ma perché quelle erano persone che odiavano il bene. Questo aspetto, ancora una volta, ha messo in evidenza che persona fosse Paolo. Infatti, il carattere di un uomo si riconosce dai suoi nemici. Se uno ha per nemici o avversari i ladri, i disonesti, i bugiardi, gli ipocriti, allora significa meno per forza di cose, meno che si tratti di un uomo onesto e sincero. Forse una delle necessità più impellenti nel campo di Dio non è tanto avere uomini preparati dottrinalmente, ma persone che lavorino spassionatamente e non si vergognino dei loro contrastanti sentimenti di amore per il bene e di avversione per il male, perché solo così è possibile comprendere la linea di demarcazione tra il giusto e l'ingiusto, tra il vero e il falso, tra il vero amore e il vero odio. Ma occorre essere semplici, spontanei, genuini. 4. Paolo era un uomo senza riguardi personali, Atti 15.3, 5.41. C. È un episodio molto conosciuto della vita di Paolo, che rivela il carattere di un uomo maturo privo di riguardi personali. E, narrato da Luca nel suo libro degli Atti degli Apostoli, nel corso della documentazione dei viaggi missionari dell'Apostolo dei Gentili, anche Paolo e Barnaba rimasero ad Antiochia insegnando ed annunziando con molti altri la parola del Signore. Alcuni giorni dopo, Paolo disse a Barnaba: «Torniamo ora a visitare i nostri fratelli in ogni città dove abbiamo annunziato la parola del Signore, per vedere come stanno». Or Barnaba intendeva prendere con loro Giovanni, detto Marco, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere con loro colui che si era separato da loro in Panfilia e non era andato con loro all'opera. Ne nacque allora una tale disputa che si separarono l'uno dall'altro. Poi Barnaba, preso Marco, si imbarcò per Cipro. Paolo, invece, sceltosi per compagno Sila, partì, raccomandato dai fratelli alla grazia di Dio, e attraversò la Siria e la Cilicia, confermando le chiese. Per quanto se ne sappia, questo episodio è veramente unico, perché l'apostolo Paolo, da uomo maturo e saggio, normalmente e in perfetta linea con il proprio insegnamento, non imponeva le proprie convinzioni. Infatti, nella lettera ai Romani, quando diede istruzioni relativa al comportamento nei confronti dei fratelli in fede, dedica molto spazio a invitarli a non imporre le proprie vedute, se queste erano oggetto di disaccordo, al punto da dire: «Tu, la fede che hai, servala per te stesso davanti a Dio», Romani 14.22. In effetti bisogna riconoscere che questo sia il giusto comportamento per poter vivere in armonia con gli altri. Diversamente, se ci si comporta come censori di Dio, si finisce per essere odiati da tutti. Giustamente, Paolo si chiede, sempre nella lettera ai Romani: «Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone. 14.4. E ancora aggiunge: quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso davanti a Dio. 14.12. Eppure, nel caso di Barnaba, Paolo non ha ceduto neppure un attimo, sembra che non sia stato per nulla comprensivo. Sembra che non abbia voluto per nulla cercare di capire il suo compagno di viaggio. Forse Paolo ha mancato di amore, forse predicava bene ma razzolava male. La discussione tra i due inviati dalla chiesa di Antiochia avverteva su Marco, loro compagno di viaggio. Si doveva decidere se era opportuno prenderlo nuovamente con loro, dato che nel primo viaggio li aveva abbandonati. La cosa non era da poco. Il viaggio era pieno di imprevisti, e se Marco non era stato in grado di resistere al primo, forse non lo era anche nel secondo. Inoltre, un uomo che aveva precedentemente abbandonato l'opera, con quale autorità o franchezza poteva consolare e incoraggiare i fratelli che soffrivano nel resistere? Da aggiungere anche che noi non sappiamo bene il motivo per il quale Marco aveva abbandonato Paolo e Barnaba, mentre l'apostolo Paolo era presente all'accaduto. Sta di fatto che Paolo e Barnaba non erano d'accordo riguardo a Marco, e Paolo non cedette dalla sua posizione. Perché? Difficile saperlo, ma ci sono alcune cose da tenere presente. Barnaba, come era abitudine fra i primi cristiani, meno aveva un altro nome, cioè Giuseppe. Il nuovo nome gli fu dato dagli apostoli, molto probabilmente meno, come era consuetudine fra i primi cristiani meno, perché rispecchiava una caratteristica della sua personalità. Il nome Barnaba significa figlio di consolazione e, quasi certamente, gli fu attribuito perché Giuseppe aveva la caratteristica di aiutare o consolare il prossimo. Infatti, fu proprio Barnaba a cercare per primo Paolo perché lo aiutasse nell'opera di evangelizzazione. C. È anche da aggiungere che Marco era cugino di Barnaba. Colossesi 4.10, e questo stato di parentela avrà influenzato Barnaba nella decisione. In definitiva meno, poiché siamo pur sempre esseri umani limitati meno, è probabile che Barnaba troppo preda del suo spirito filantropico e non è impossibile che il lato di parentela abbia avuto la sua parte, per cui ha anch'egli ritenuto opportuno non mollare sulla sua decisione. Dal canto suo, Paolo, avendo compreso questo punto debole, ha ritenuto opportuno non cedere perché, facendolo ora, avrebbe dovuto arrendersi altre volte e per riguardi personali. Se faceva un favoritismo a Barnaba, avrebbe creato dei precedenti. Non avere riguardi personali è un atteggiamento raro, al punto che Giacomo ha dovuto scrivere nella sua lettera: se veramente adempite la legge regale secondo la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene, ma se usate favoritismi personali commettete peccato e siete condannati dalla legge come trasgressori. Giacomo 2.8.9. Amare il prossimo, come Barnaba, è certamente il più grande comandamento nei confronti degli uomini. Ma non basta, perché resta il pericolo della parzialità, cosa da cui Paolo si è ben guardato. 5. Paolo non era un uomo autosufficiente, Nuovo Testamento e Atti 28.1.1.15. Tutti siamo alla ricerca dell'uomo ideale. Anzi, tutti vorremmo essere l'uomo ideale, una presenza fisica invidiabile, sempre all'altezza di ogni situazione, possibilmente affascinante e seducente, ma soprattutto autosufficiente. Cioè colui che basta a se stesso, non avendo bisogno degli altri. E un'ambizione radicata nel profondo del nostro essere, perché avere bisogno degli altri o dipendere da altri, prima di tutto è umiliante. Poi, spesso chi ti aiuta lo fa a modo suo, e, benché vada, non ti fa pesare il suo aiuto. Così, desiderare di essere autosufficienti può diventare un'ambizione alla quale mirare per comodità. Del resto è anche giusto arrivare ad avere una certa autosufficienza, perché è il bambino che ha bisogno continuamente dei genitori per vestirsi, per camminare per la strada, per ogni cosa. Perciò l'autosufficienza è un traguardo al quale ogni uomo o donna deve mirare se vuole diventare maturo o completo, e, così, essere anche utile alla società. Purtroppo, questo dato di fatto si riflette anche nel campo spirituale, per cui noi consideriamo l'uomo in base alla sua indipendenza, arrivando alla conclusione che uno più è spirituale più è autonomo o autosufficiente. L'uomo di Dio lo immaginiamo intrepido in ogni situazione, capace di compiere ogni cosa. Lo vediamo in grado di affrontare senza il minimo palpito le avversità più grandi. Per noi l'uomo di Dio è tutto di un pezzo, capace a se stesso. Proprio per questa comune opinione, leggendo un certo episodio della vita di Paolo, sono stato toccato dalla sua mancanza di autosufficienza. Così, leggiamo nel racconto del suo viaggio come prigioniero verso Roma. 3 mesi dopo, partimmo su una nave di Alessandria, che aveva svernato nell'isola, avente per insegna Castore e Polluce. Arrivati a Siracusa, vi restammo 3 giorni. E di là costeggiando arrivammo a Reggio. Il giorno dopo si levò lo scirocco, e in 2 giorni arrivammo a Pozzuoli. Avendo trovato qui dei fratelli, fummo pregati di rimanere presso di loro 7 giorni. E così giungemmo a Roma. Or i fratelli di là, avute nostre notizie, ci vennero incontro fino al Foro Appio e alle 3 taverne, e Paolo, quando li vide, prese grazie a Dio e prese coraggio. Prima di arrivare a Roma, Paolo ne aveva passate di tutti i colori. E, sufficiente ricordare la sua testimonianza, in merito a cosa ha sofferto. Dai giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferzate. Meno una. 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho trascorso 1 giorno e 1 notte sull'abisso. Sono stato spesse volte in viaggio fra pericoli di fiumi, pericoli di ladroni, pericoli da parte dei miei connazionali, pericoli da parte dei gentili, pericoli in città, pericoli nel deserto, pericoli in mare, pericoli fra falsi fratelli, nella fatica e nel travaglio, sovente nelle veglie, nella fame e nella sete, spesse volte in digiuni, nel freddo e nella nudità. 2 Corinzi 11.2-4.27. Dunque l'intrepido apostolo Paolo era stato in grado di soffrire tutte queste cose, aveva resistito ad ogni abbattimento morale e ad un fisico provato duramente. È facile leggere sulla carta, ma ricevere 195 sferzate, anche se non tutte in un colpo, e rimanere sempre attivo e fervente nell'opera di Dio, non è da tutti. Che razza di schiena poteva avere l'apostolo Paolo? Quali dolori sopportava? Che uomo, diremmo noi. È vero, Paolo era veramente un uomo straordinario, sostenuto dalla potenza di Dio, e appunto per questo mi ha fatto maggiore effetto leggere che a Roma, nel vedere i fratelli, prese coraggio. Stupendo! Se non aveva coraggio Paolo, chi altri ne poteva avere? Eppure, davanti alla vista dei fratelli venutigli incontro, ringraziò Dio e prese coraggio. Mi sembra di vederlo. Lui, che era stato abbandonato al punto da scrivere nella sua ultima lettera a Timoteo soltanto Luca è con me, 2 Timoteo 4.11, lui, che aveva speso tutto per il prossimo ma soprattutto per i fratelli in fede, lui, che aveva rinunciato ai propri diritti per non offendere nessuno, lui, che si era fatto zerbino, cioè un pulisipiedi, per salvare sia i giudei sia gli stranieri. E, poiché noi apprezziamo la vita mediante i contrasti, cioè desideriamo il caldo perché c'è è il freddo, godiamo il riposo perché ci stanchiamo, così Paolo deve aver gustato come non mai la presenza di fratelli andati ad incontrarlo. Che incoraggiante boccata d'aria deve essere stata! Se il medico di letto ha precisato la consolazione di Paolo, è per mettere in evidenza l'uomo maturo, completo, virile quale era, e che proprio in virtù di queste sue peculiarità era edificato o incoraggiato dalla presenza dei suoi fratelli in fede. E così anche per te lo sarà se avrai i presupposti di Paolo. Avere sofferto fisicamente e moralmente da parte degli increduli e da parte dei fratelli che hai svisceratamente amato. 6. Paolo era un uomo capace di stare sottomesso. 1 Corinzi 16.1-5-16. Spesso una sola parola può essere illuminante, o può dirci di più di tanti discorsi. Quando lessi nel libro dei giudici che un uomo di nome Elcana amava sua moglie Anna benché fosse sterile, benché mi fece comprendere che, in quel tempo, per uomo era importantissimo avere i figli dalla propria sposa, la quale in genere non era amata o addirittura odiata se non emetteva al mondo. Così è stato nel leggere una esortazione di Paolo collocata quasi al termine di una lunga lettera, scritta ai credenti della città di Corinto, nella quale aveva dato ordini di vario genere. Per comprendere appieno l'esortazione di Paolo occorre tenere presente l'opinione che l'Apostolo aveva di sé, perché egli era cosciente di avere un'autorità datagli da Dio non inferiore agli altri apostoli, e sapeva di aver lavorato più di tutti loro. 1 Corinzi 15.10. Proprio per questa presa di coscienza della sua autorità e posizione spirituale, in merito alla colletta scrisse: «Quando poi sarò giunto, io manderò con delle lettere coloro che voi avrete approvato per portare il vostro generoso dono a Gerusalemme. E se converrà che ci vada io stesso, essi verranno con me». 1 Corinzi 16. 3 a 4. Quindi, se qualcuno doveva compiere una missione o un servizio sacro assieme a Paolo, queste persone dovevano dipendere da lui. È come dire: se facciamo un viaggio, io e mio nipote, lui verrà con me. Intendendo con questa frase che io sono l'autorità e lui mi seguirà ovunque io vada. Dunque, Paolo sapeva di essere l'ultimo dei 12 apostoli, ma era cosciente anche di poter agire rigidamente secondo l'autorità che Cristo gli aveva conferito, 2 Corinzi 13.10. Con questa premessa, l'esortazione di Paolo rivolta ai credenti di Corinto acquista maggior significato. Ora, fratelli, voi conoscete la famiglia di Stefana e sapete che è primizia della Caia e che si sono dedicati al servizio dei santi. Vi esorto a sottomettervi anche voi a tali persone e a chiunque si adopera e si affatica nell'opera comune. L'Apostolo Paolo parla di una famiglia nota ai Corinzi e che lui aveva battezzato, 1.16, una famiglia preziosa, perché potrebbe essere stata la prima famiglia a convertirsi interamente. Ma non solo. La famiglia di Stefana era un esempio luminoso di quello che dovrebbe essere il comportamento dei cristiani, poiché si erano dedicati al servizio dei fratelli. Alcuni studiosi della lingua greca fanno notare che il verbo dedicarsi è una metafora commerciale in riferimento ad un mestiere di servire il pubblico. Per cui Stefana e la sua famiglia avevano preso come loro personale responsabilità questo servizio cristiano. Essi non assunsero un posto direttivo o di onore nell'ambito della Chiesa, ma piuttosto uno di umile servizio. È con questa premessa che Paolo esorta i credenti di Corinto a sottomettersi alla famiglia di Stefana, ma in seguito usa una parola che ce ne rivela il carattere sottomesso. Anche voi. È vero che l'espressione può essere intesa come fanno gli altri, così dovete fare anche voi. Ma è altresì vero, e non improbabile, che intendesse dire: come sono sottomesso io, siatelo anche voi. Inoltre dell'invito ai credenti di Corinto a sottomettersi alla famiglia di Stefana, Paolo instaura un principio dicendo, in seguito, di essere sottomessi a chiunque lavora e si affatica nell'opera comune. È impensabile che Paolo stabilisca questo principio senza applicarlo lui stesso. Così, questo particolare della vita di Paolo ci rivela un principio del cristianesimo che non dovrebbe mai essere dimenticato: la necessità di sottomissione a chi è preposto a un certo servizio in un certo ambito. Ciò significa che un professore o un laureato devono essere sottomessi a chi fa le pulizie in sala, mentre chi predica deve essere sottomesso a chi programma una gita per tutta la Chiesa. Un dono non autorizza ad avere un posto direttivo in tutti gli ambiti della vita di Chiesa, così come un conduttore non può dire sempre la sua con autorità in campi che non gli competono. L'Apostolo Paolo era una delle massime autorità tra i primi cristiani, eppure non troviamo nessun accenno di autorità per cose che non gli competevano. L'Apostolo Paolo era sottomesso o dipendeva dagli altri. E lo dimostra il fatto che, quando gli anziani di Gerusalemme gli ordinarono F.A. accento grave dunque quello che ti diciamo, Atti 21.23, di purificarsi con altri 4 uomini, egli ubbidì, docilità, questa, che gli costò la prigionia fino alla fine della sua vita. A Dio non importa che facciamo grandi cose, ma che siamo sottomessi alla sua volontà, e la sua volontà è che siamo sottomessi a chi lavora per Cristo, seriamente e onestamente. Che la famiglia di Stefano e Paolo possano essere esempi per noi. 7. Paolo era un uomo amabile, Atti 20.3-6.38. Farsi l'opinione giusta di una persona non è facile. Tutti abbiamo fatto l'esperienza di avere un parere su qualcuno e, in seguito con una maggior conoscenza, cambiare idea. Perché? Cos'è successo? E, forse cambiata la persona? No. Il vero motivo è perché abbiamo avuto la possibilità di stargli vicino, di conoscerla nelle varie situazioni della vita, di vederla come si comporta nella cattiva e buona sorte. Non è possibile formarsi un'opinione giusta e equilibrata di qualcuno solo vedendolo un attimo, come in una fotografia, ma occorre guardarne il filmato della vita. Così è anche dell'Apostolo Paolo. Noi possiamo anche avere un'opinione buona o cattiva, ma chi ci dice che la nostra valutazione sia giusta? Sono passati 2000 anni dalla sua morte e gli scrittori biblici potrebbero anche presentarne un aspetto non completo. Come comportarsi allora? La risposta è molto semplice. Le persone che potevano conoscere bene Paolo erano i suoi contemporanei e, soprattutto, coloro che gli vivevano accanto, persone che avevano occasione di vederlo in tutte le situazioni della vita. Dal loro modo di comportarsi nei suoi confronti possiamo farci un'idea del suo carattere. Vi è appunto un episodio che più di tanti altri rivela l'Apostolo Paolo come un uomo amabile, dove per amabile intendiamo colui che ispira amore o simpatia. Una caratteristica certamente poco comune, perché sono pochi coloro che infondono o suscitano una positiva, giusta e santa attrazione. Questo episodio si trova nel libro degli Atti, quando Paolo convoca i conduttori di Efeso per salutarli definitivamente. Dopo aver espresso il suo amore e dopo averli avvertiti del pericolo dei falsi profeti, l'Apostolo termina con le seguenti parole: «In ogni cosa vi ho mostrato che affaticandosi in questo mondo ci conviene sostenere gli infermi e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse: ci è maggior felicità nel dare che nel ricevere». Lo scrittore Luca riporta poi il seguente episodio. E, quando ebbe dette queste cose, si inginocchiò e pregò con tutti loro. Allora tutti scoppiarono in un gran pianto e, gettatisi al collo di Paolo, lo baciavano, dolenti. Soprattutto per la parola che aveva detto, che non vedrebbero più la sua faccia. Poi l'accompagnarono alla nave. Apparentemente vediamo un normale saluto di persone che sanno di doversi distaccare definitivamente. Ma in questo addio vi sono elementi rivelatori del carattere di Paolo. Innanzitutto, l'Apostolo era conosciuto, perché non era stato di passaggio ad Efeso, ma vi aveva dimorato almeno 2 anni. Atti 19.10. Sottolineo questo aspetto, perché ricordo che vi fu un tempo in cui trascorsi le ferie in una località della Liguria, e come mia consuetudine, alla domenica entrai in una comunità evangelica. Molto gentilmente i fratelli mi chiesero di presentare un messaggio biblico, cosa che feci molto volentieri. Finita la predicazione mi si avvicinarono i fratelli responsabili e mi chiesero, con una certa insistenza, se potevo andare ad abitare nella loro città, promettendo che mi avrebbero provveduto l'appartamento e un aiuto economico. E, poiché la loro insistenza era fastidiosa, dovetti dire, «Ma voi siete matti? Che ne sapete di me? Potrei anche essere un predicatore che predica bene. E razzola male. Voi prendete un impegno nei miei confronti senza neppure conoscermi. Vi sembra una cosa saggia?» Solo così smisero di insistere. Ma non era lo stesso per l'Apostolo Paolo. Paolo aveva dimorato a Efeso, per cui avevano avuto occasione di relazionarsi con lui non per un giorno, non per 2 giorni, ma per 2 anni interi. In questo periodo non sorsero incomprensioni come in tutti i rapporti. Non vi furono occasioni per alcuni di esprimere una certa rivalità o supremazia? Certamente. Evidentemente, il carattere di Paolo ha evitato spiacevoli situazioni o conclusioni che avrebbero portato al desiderio di non vedersi o di non incontrarsi. Infatti, il rapporto fraterno si misura dal desiderio di vedersi e di rivedersi, e non dall'emotività affettiva. Così l'abbraccio, i baci fraterni, il grande pianto di tutti hanno rivelato l'amabilità dell'Apostolo Paolo, e soprattutto in considerazione del fatto che questi gesti di amore scaturivano dall'essere consci di non rivederlo più. Era quello il profondo dolore che provavano i fratelli per Paolo. Che bello, che consolazione, che lezione di vita, che gloria, lasciarsi con dolore. Questo dovrebbe essere uno dei grandi obiettivi del credente in relazione alla comunità. Si possono fare grandi cose per la propria comunità, si possono esprimere i più grandi talenti e doni, si può essere la persona più influente, ma se al momento della grande separazione non si lascia un sincero e profondo dolore per l'addio terreno, allora si è persa l'occasione di lasciare un vero vuoto, ricolmabile solo alla presenza di Dio. Paolo sapeva che tra di loro sarebbero sorti uomini che avrebbero insegnato cose perverse, Atti 20.30, ma si era fatto amare con il suo carattere fermo, autorevole ma soprattutto amabile. 8. Paolo se gli faceva rispettare quando questo onorava a Dio, Atti 16.3-5.40. Farsi rispettare è una inclinazione naturale dell'uomo e rappresenta la linea di demarcazione tra il soccombere e il prevalere. Bisogna riconoscere che la vita, come nel regno animale, è un continuo equilibrio tra ciò che possiedo e ciò che possiede l'altro, per cui più volte è stato detto che la mia libertà finisce dove inizia quella del mio prossimo. Un equilibrio delicatissimo e non sempre compreso. Perciò farsi rispettare non è sbagliato, a meno che questo comportamento non violi qualche altra legge. Spesso al credente, quando soffre, viene rinfacciato l'ordine di Gesù di porgere l'altra guancia. Ma chi fa questo non tiene presente che tale ordine non era dato nel senso assoluto, ma in riferimento all'ambito della testimonianza. Se a causa della propria fede qualcuno veniva disprezzato o gli veniva fatta qualsiasi violenza, egli era chiamato a non rispondere con il male e a non ostacolare il male che si compiva su di lui. Una chiamata veramente sopra i limiti dell'umano. L'Apostolo Paolo più volte ha dimostrato di aver preso sul serio l'ordine di Gesù e per la sua fede ha spesso sofferto molto, senza ribellarsi. Una di quelle volte si è verificata nella città di Filippi, dove è stato ingiustamente maltrattato, picchiato e incarcerato. L'Evangelista Luca descrive così il seguito del racconto. Fattosi giorno, i pretori mandarono i lettori a dire al carceriere: «Lascia liberi quegli uomini». E il carceriere riferì a Paolo queste parole: «I pretori hanno mandato a dire che siate lasciati liberi, quindi uscite e andate in pace». Ma Paolo disse loro, dopo averci pubblicamente battuti, senza essere stati condannati in giudizio, noi che siamo cittadini romani, ci hanno gettati in prigione e ora ci fanno uscire di nascosto. No davvero, vengano loro stessi a condurci fuori. I lettori riferirono queste parole ai pretori, ed essi, quando udirono che erano cittadini romani, ebbero paura. Ora essi vennero e gli pregarono di scusarli e, condottili fuori, chiesero loro di lasciare la città. Allora essi, usciti di prigione, entrarono in casa di Lidia e, visti i fratelli, li consolarono. Poi partirono. Dunque i magistrati in seguito mandarono i lettori, cioè coloro che avevano le verghe, e gli ufficiali che li avevano battuti, a riferire a Paolo che potevano essere liberi. Avevano preso coscienza dei loro errori. Solo a questo punto l'Apostolo Paolo inaspettatamente reagisce in modo insolito, insistendo sull'infrazione a danno del suo privilegio di cui i magistrati si erano resi colpevoli. Perché non fece presente fin dall'inizio di essere un cittadino romano per evitare tanta sofferenza? Era forse un povero sadico al quale piaceva la sofferenza? Perché Paolo voleva che i magistrati venissero loro stessi a liberarli porgendo loro delle scuse? Era forse una questione di onore personale? Si sentiva forse offeso nella sua dignità umana l'Apostolo Paolo? Non era per una questione di onore se Paolo si dimostrava tanto rigido e insistente, ma di giustizia e per la causa del Vangelo. Se lui e i suoi amici venivano riconosciuti innocenti, questo andava ad onorare l'Evangelo agli occhi di tutto il popolo e, nello stesso tempo, serviva per ammorbidire i magistrati nei confronti dei cristiani di Filippi, in modo tale da ottenere un migliore trattamento per loro. Inoltre, avendo Paolo un discreto vantaggio sui magistrati e non promuovendo un'azione legale contro di loro, dava all'opinione pubblica la dimostrazione di come si deve comportare un cristiano. In definitiva, a Paolo non interessava tanto la sua dignità o onorabilità, per la quale molte persone sono disposte a dare o a togliersi la propria vita, perché sapeva di essere agli occhi degli increduli come la spazzatura di questo mondo. 1 Corinzi 4.13. Ma ogni sua ragione per essere onorato, giustificato, innalzato, era finalizzata a dare gloria a Dio e perché l'Evangelo fosse apprezzato per quello che era. Questo aspetto del carattere di Paolo dovrebbe possedere ogni credente in ogni istante, perché, a nulla, valgono le regole o i consigli riferiti al comportamento da tenersi in questo mondo, quando il nostro primo scopo è quello di emergere o di avere una reputazione sempre migliore, perché sono i nostri obiettivi a determinare il nostro comportamento. Se ogni cosa si facesse per la gloria di Dio, non saremmo permalosi e non avremmo riguardi personali, saremmo sempre genuini e appagati per quello che abbiamo, sapremmo stare sottomessi al momento opportuno con quell'amabilità così preziosa e utile nella vita, ma soprattutto ci comporteremmo virilmente, 1 Corinzi 16.13, da uomini adulti maturi. Come disse l'apologeta cristiano centesimo S. Lewis, essere completamente nuovo testamento e uomo significa avere le passioni O, B, B, E, D, I e Nuovo Testamento I alla Volo Nuovo Testamento e L a Volo Nuovo Testamento offerta a Dio. Marzo 2010. Ellero.